Al jinn, i demoni. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Di, mi è stato rivelato che un gruppo di demoni ascoltarono e dissero: In vero, abbiamo ascoltato una lettura meravigliosa. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Che conduce sulla retta via. Abbiamo creduto in essa e non associeremo nessuno al nostro Signore. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. In verità egli, esaltata sia la sua maestà, non si è preso né compagna né figlio. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. Uno stolto dei nostri diceva menzogne contro Allah. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. Pensavamo che né gli uomini né i demoni potessero proferire menzogne contro Allah. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. In vero c'erano degli uomini che si rifugiavano presso i demoni, e questo non fece che aumentare la loro follia. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. Anch'essi pensavano, come lo pensavate voi, che Allah non avrebbe resuscitato nessuno. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. In vero abbiamo sfiorato il cielo, ma lo abbiamo trovato munito di temibili guardiani e di bolidi fiammeggianti. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Ci sedevamo un tempo in sedie appropriate per ascoltare, ma ora chi vuole origliare trova un bolide fiammeggiante in agguato. Noi non sappiamo se sia stata decretata una sventura per coloro che stanno sulla terra, o se il loro Signore li voglia guidare al bene. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Tra noi ci sono dei giusti e altri che non lo sono. Siamo in diverse sette. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. Pensavamo che mai avremmo potuto annullare la potenza di Allah sulla terra e che non avremmo mai potuto sfuggire a Lui. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Quando udimmo la guida credemmo, e chi crede nel suo Signore non teme danno né offesa. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ مَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Ora tra noi ci sono i musulmani e i ribelli. I musulmani sono quelli che hanno scelto la retta via. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. I ribelli invece saranno combustibile dell'inferno. Se si manterranno sulla retta via, noi li disseteremo di acqua abbondante. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Per metterli colà alla prova. Allah condurrà ad un castigo incessantemente più severo chi avrà trascurato il monito del suo Signore. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Le moschee appartengono ad Allah, non invocate nessuno insieme con Lui. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Quando il servo di Allah si levò per invocarlo, poco mancò che lo stringessero fino a soffocarlo. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي ولا أشرك به أحدا. Di, non invoco altri che il mio Signore e non gli associo alcunché. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Di, in verità non posso né nuocervi né giovarvi. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Di, in verità nessuno potrà proteggermi da Allah e mai troverò rifugio all'infuori di Lui. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Se non comunicando in nome di Allah i suoi messaggi. Coloro che disobbediranno ad Allah e al suo messaggero avranno il fuoco dell'inferno e vi rimarranno in perpetuo per sempre. Hatta إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. Quando poi vedranno quello che è stato promesso loro, allora sapranno chi avrà avuto l'alleato più debole e chi sarà stato numericamente esiguo. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. Di, io non so se quello che vi è stato promesso è imminente o se il mio Signore vorrà ritardarlo. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. Egli è colui che conosce l'invisibile e non lo mostra a nessuno. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Se non ha un messaggero di cui si compiace, che fa precedere e seguire da una guardia angelica. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Per sapere se i profeti hanno trasmesso i messaggi del loro Signore. Gli è ben noto tutto ciò che li concerne e tiene il conto di tutte le cose.